Siamo in collegamento con Pietro Del Solda di AMREF, al quale vorrei chiedere qualcosa di più sull'organizzazione nata a Nairobi e in particolare sulla campagna Facciamo crescere il lavoro nero. AMREF è un'organizzazione africana, è oggi forse la più grande organizzazione sanitaria per l'Africa, è fatta di uomini e donne africani che lavora in approssimativamente 13-14 paesi dell'Africa orientale, ha la sua sede a Nairobi. Da 15 anni esiste in Italia una sua emanazione che ha lo scopo principale, è quello di sostenere finanziariamente i progetti di sviluppo sociosanitario in Africa, e sottolineo finanziariamente, nel senso che i progetti non sono concepiti da esperti italiani di sviluppo, ma sono tutti elaborati, concepiti e gestiti da personale africano. Il ruolo italiano è quello appunto di sostenerne i costi e in secondo luogo di diffondere la voce di quell'Africa in Italia. Parte, negli anni sono state realizzate tantissime iniziative, documentari, progetti di diverso tipo, campagne pubblicitarie, film, spettacoli teatrali con i bambini di strada, come recentemente è accaduto a Roma. L'ultimo atto di questo tentativo, l'ultimo, ma insomma, ne seguiranno molti altri negli anni a venire, nel tentativo di diffondere quest'Africa appunto forte, autonoma, che non vuole dipendere da aiuti esterni, ma si vuole costruire da sé il proprio futuro, è questa, una campagna pubblicitaria che arriverà nella città di Roma sabato 20 novembre con 500 grandi manifesti che saranno affissi sul retro degli autobus di linea. A Milano sono già distribuiti nelle linee metropolitane, poi anche altre città, Perugia, Napoli, aspetteranno questa campagna. Lo slogan è provocatorio, facciamo crescere il lavoro nero, dove ovviamente il riferimento è anche necessariamente all'espressione lavoro nero, che indica la difficile condizione in cui soprattutto sempre più nell'ultimo anno si trovano a lavorare e vivere migranti africani nel nostro paese, ma noi vogliamo sottolineare l'accezione positiva di questa espressione, appunto, così come lo slogan precedente di AMREF fu il futuro dell'Africa è nero, dove però appunto era soltanto apparente la negatività di questa affermazione, in realtà si voleva sottolineare il futuro di un'Africa che si gestisce da sé. Ah, così anche questa volta il lavoro nero ha una valenza positiva. Il lavoro nero è il lavoro di tanti formatori, insegnanti, professionisti, medici di AMREF, dei quali appunto sono i volti di questa campagna. A Roma si girerà per le strade il volto di una giovane dottoressa, Maria Tororei, che lavora nell'unico centro sanitario presente nella più grande baraccopoli di Nairobi, che è anche una delle più grandi dell'Africa, Kibera, dove vivono concentrate in un ammasso di lamiera e fango quasi 800.000 persone. Ebbene, il suo volto però appunto è un volto sorridente, un volto di una persona che crede in quello che fa, che vuole costruirsi un po' da sé la propria strada. Questo è il senso di questa campagna, cioè raccontare agli italiani un'Africa che non è solo emergenza umanitaria, crisi e necessità di assistenza, ma un'Africa che vuole magari un aiuto, però mirato a non aver più bisogno di aiuto e non semplicemente a dipendere da qualcuno. Ecco, sappiamo che l'Africa, al di là dei problemi di gestione e sviluppo, è innanzitutto forse un continente non pacificato. Puoi fornirci un aggiornamento sui principali punti di crisi? Sì, io ti posso raccontare, ti posso fare accenno a due delle zone principali in cui AMREF interviene, che sono oggi veramente devastate da due situazioni di conflitto. Una è il nord Uganda, una zona dove infuria quella che poche settimane fa un alto funzionario delle Nazioni Unite, che già vice segretario, Jan Egeland, ha definito la più grave crisi umanitaria del pianeta, peggio ancora della crisi umanitaria che sta infuriando nella regione sud-sudanese del Darfur. Nel nord Uganda da 20 anni infuria una guerra civile tra il governo di Kampala e le milizie ribelli del cosiddetto esercito di resistenza del Signore, che è un esercito guidato soltanto da un folle principio di violenza nei confronti della popolazione. Per tante ragioni di interessi internazionali e anche dello stesso governo ugandese, di questa guerra se ne parla molto poco. Noi lì interveniamo nei campi profughi, dove è raccolta la quasi totalità della popolazione. Ormai la popolazione non vive più nei propri villaggi, ma è tutta interamente concentrata in campi di raccolta dove le condizioni di vita sono disastrose. È veramente difficile nutrire speranza. È notizia di questi giorni di un incontro al vertice tra il governo ugandese e il leader ribelle, questo folle visionario Joseph Kony, che rapisce e indottrina i bambini delle famiglie dei contadini acioli della zona del nord Uganda, appunto trasformandoli in spietati bambini soldato. Ma ovviamente è lecito dubitare anche sul possibile esito positivo di questi incontri, perché fin tanto che non ci sarà una vera attenzione internazionale su questa crisi sarà difficile immaginare spiragli di pace. Un'altra zona in cui invece volevo testimoniare proprio oggi e diffondere una notizia positiva, un'altra zona di guerra che riguarda anche un'area di intervento di Amref, è il sud del Sudan. Oltre alla crisi recentemente scoppiata in Darfur, il Sudan è lacerato da una guerra civile tra il governo musulmano di Khartoum e le milizie indipendentiste del sud del paese, che da 20 anni, in realtà è un conflitto che getta le proprie radici già nel secolo scorso tra nord e sud, insomma da 20 anni c'è stata una recrudescenza di violenza che ha provocato oltre 2 milioni di morti, 4 milioni di sfollati e la distruzione di un intero paese. Da 2 anni in particolare, i contendenti cercano di raggiungere un accordo di pace, ma i tanti interessi che coinvolgono paesi confinanti e anche potenze straniere riguardo al territorio del Sud Sudan, ricco peraltro di petrolio e delle acque del Nilo, sono sempre falliti. È notizia di oggi che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, presente anche nella persona del segretario generale Kofi Annan a Nairobi, quindi nel vicino Kenya, ha emanato una risoluzione in cui si garantisce, diciamo, che entro il 31 dicembre di quest'anno vengano finalmente siglati accordi di pace definitivi tra le milizie indipendentiste del Sud e il governo di Khartoum, e congiuntamente anche proseguano gli accordi di pace e vengano rispettati gli accordi di pace già sottoscritti per il Darfur, e soprattutto un impegno internazionale per la ricostruzione. Il Sud Sudan è un paese che non esiste più, non ci sono più ospedali, non ci sono servizi, non ci sono infrastrutture, ci sono soltanto macerie. Amref è presente in Sud Sudan con l'unico centro di formazione di personale sanitario e quindi, essendo una delle organizzazioni leader nella ricostruzione del sistema sanitario, ci tocca direttamente la notizia che arriva oggi, che purtroppo nei giornali italiani, a parte l'agenzia MISNA, non ha avuto moltissimo riscontro, ma insomma è importante diffondere una notizia che qualcosa si sta muovendo. Ovviamente gli interessi internazionali sono tanti, quindi è sempre lecito mettere tra virgolette ogni spiraglio di speranza.